Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Nuovo appuntamento con Personal Best, il corso di corsa alla radio. Al mio fianco, carica e sorridente come sempre, Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno. Puntata particolare quella di oggi, perché parliamo di scarpe, senza tacco però, Ivana. Il capitolo di scarpe infatti è uno di quelli che appassiona di più chi corre. Molti infatti ci scrivono per chiederci consigli e suggerimenti, e quando si parla di scarpe da running non si può che pensare all'ingegner Filippo Pavesi. Benvenuto. Benvenuto, benvenuti a voi. Non proprio ingegnere, ma insomma mi appioppano questo, forse anche per una serie di cognizioni specifiche. Ah, ok. In realtà mi occupo di studi e ricerche nelle calzature, nel campo delle calzature, da più di un quarto di secolo, ma come formazione sono un designer essenzialmente. Da che cosa dobbiamo partire quando pensiamo all'acquisto, non so, di un nuovo paio di scarpe per correre? Ma io direi, per poterlo fare con una certa sicurezza, bisogna che ciascuno di noi si prenda un minimo di tempo per acquisire quelle nozioni che sono indispensabili per potersi regolare da solo. Imparate un po' a osservarvi, osservare anche le vostre scarpe e un po' come voi e le scarpe interagite, piuttosto che non rifarvi a vecchi schemi che poi risultano anche obsoleti, o ai consigli di qualcuno, perché ciascuno di noi è diverso e è molto diverso anche dal punto di vista biomeccanico, quindi quello che va bene per una persona non necessariamente va bene per gli altri. Quindi bisogna considerare anche magari di approcciarsi nell'acquisto di un paio di scarpe, magari di andare in un negozio specializzato e fare una prova di appoggio, insomma, di queste cose. Può sicuramente aiutare, sicuramente il fatto di andare in un negozio specializzato aiuta, anche perché si può avere una scelta tra tutta una serie di modelli. E si possono scegliere, tra parentesi, le scarpe in base alle taglie, perché la taglia è una delle cose più importanti. Le taglie, raccomando, le cosiddette mezze taglie, ho detti anche punti inglesi o punti americani, che variano dall'uno all'altro solo di 4 mm, a differenza di quelli italiani e francesi che hanno una differenza di 8 mm. Ah. Quindi la scarpa da corsa va comprata giusta di taglia, prima cosa, sì. Per cui è indispensabile scegliere bene anche la taglia. E poi fondamentalmente scegliere la forma, che deve essere quella del piede. È vero che oggi ci sono stati enormi miglioramenti anche nei materiali, soprattutto quelli della parte sopra, la cosiddetta tomaia, che sono più elastici, più adattabili di anni fa, però se la forma non è compatibile a quella del piede, non ce n'è. Sulla misura, permettetemi di dire che una sorprendente statistica ha dimostrato che nel Regno Unito il 50% delle donne usa delle scarpe di taglia sbagliata. Veramente? No, veramente. Non abbiamo motivo di ritenere che in Italia debba essere meglio, però il 50% usa ancora oggi taglie sbagliate, e quasi sempre vuol dire piccola. Ah, più piccola di quello che, sì. Che dovrebbe. Quindi essere. La scarpa per correre deve essere della taglia giusta, che vuol dire, tra parentesi, avere una riserva di spazio di almeno un dito messo per traverso davanti al nostro dito più lungo. Ok, si parla sempre di una taglia in più, può essere questa un'indicazione o no? Diciamo in linea di massima quasi, però ecco, bisogna sempre avere una certa riserva di spazio davanti. E poi deve essere abbastanza larga per consentire la naturale deformazione del piede, viceversa il tallone e il mesopiede non devono scivolare. Okay. Allacciata giusta, non troppo tirata ma abbastanza stretta, il piede deve essere fermo senza scivolare nella parte posteriore. Poi c'è una scelta magari legata anche al fatto che la scarpa sia reattiva o che sia ammortizzata, insomma, che indicazione. Certamente, detto questo, gli elementi che entrano in gioco sono quelli che offrono il livello di protezione adatto. La protezione sostanzialmente comprende la giusta flessibilità, la giusta ammortizzazione, la giusta stabilità e anche il giusto assetto. La flessibilità va da sé che anche la scarpa deve flettere dove flette il piede, cioè non dietro dove il piede non flette, ma sotto la testa di metatarsi come flette il piede. L'ammortizzazione in linea di massima non è mai troppa, perché la corsa è uno sport che richiede dei movimenti completamente ripetitivi, totalmente ripetitivi, quindi stressa a livello massimale le stesse parti dei piedi e delle articolazioni. Quindi l'ammortizzazione non è mai troppa. L'unica cosa è che tendenzialmente ciò che garantisce una buona ammortizzazione, ad esempio uno spessore della intersuola, che è quella morbida che sta in mezzo tra la tomaia e la suola battistrada, se si esagera poi vengono meno certe altre caratteristiche tipo la stabilità. Ah. La stabilità, tra parentesi, è quella che nel gergo, diciamo, calzaturiero, con in particolare applicazione running, determina la capacità di una scarpa di non cedere troppo durante la rotazione dell'articolazione sottostragalica, che è quella che c'è tra la caviglia e il piede, che a seconda della rigidità di ciascuno di noi può essere più o meno accentuata. ci fa compiere quella sequenza di movimenti di piede che avrete sentito, di cui avrete sentito parlare, che sono i movimenti di pronazione. La pronazione non è una malattia, non è una cosa che vada ostacolata, è una cosa da incoraggiare, bisogna solo che le scarpe ci permettano di controllare che non diventi eccessiva. Se no, si possono riverberare sopra una serie di, diciamo, disallineamenti, fino ad esempio a creare danni al ginocchio, all'anca, eccetera, eccetera. L'ultima cosa è l'assetto, che vuol dire in sostanza quanto il tallone rispetto all'avampiede è più o meno alto. È un po' il tacco in pratica. Per esempio una scarpa che calzandola ci mette una distanza di 35 mm sotto il tallone rispetto a terra e di 25 davanti, ha un differenziale di 10 mm. Questo è importantissimo, anche se poco noto, perché più è alto più è, diciamo, sicura la scarpa, nel senso che stressa di meno il tendine di Achille. D'altro canto più basso, proprio perché il tendine d'Achille durante ogni appoggio si allunga al massimo, accumula più energia elastica, quindi la scarpa diventa più reattiva. Va da sé che a seconda di quello che uno fa, dell'età, delle caratteristiche di elasticità naturale, eccetera, certuni possono usare scarpe di ogni tipo, anche molto basse, magari giovandone anche in termini di mobilità, eccetera, di naturalezza del movimento. Certi altri, come purtroppo il sottoscritto, che sono già un runner abbastanza stagionato, purtroppo al di sotto di un certo limite di differenziale non possono andare. Quindi queste qui hanno le scarpe, insomma, che hanno un differenziale più basso, tendenzialmente si pensa siano le scarpe più veloci, adatte magari a percorsi più brevi? Diciamo, può essere relativamente vero, è sicuramente vero che se io vado veloce e se faccio delle corse brevi non ho bisogno di portarmi dietro una massa accessoria determinata da un maggior dislivello di materiale sotto il piede, quindi si cerca di toglierlo. D'altro canto non ci sono differenze reali, ad esempio nel ritorno d'energia con scarpe, anzi non sono misurabili scientificamente differenze di ritorno d'energia correndo con scarpe con differenziale più alto o più basso. Viceversa, ripeto, cambia la sollecitazione elastica del tendine d'Achille. Il tendine d'Achille sì che può immagazzinare energia elastica. Quindi arriva solo da lì, non dalla scarpa, diciamo. Sì, più o meno. Prevalentemente. Non c'è una scarpa che ti fa andare più veloce. Per chi cerca di andare veloce può essere chiaramente utile e anche interessante sperimentare con scarpe con una maggiore reattività, intendendo con questo termine la capacità della intersuola soprattutto di ritornare all'altezza originale dopo essere compressa durante l'impatto. Chiaro che se una scarpa ritorna prima può aiutare chi cerca di andare veloce, però bisogna anche che questo ritorno avvenga in fase, come si dice, cioè nel momento giusto, altrimenti in realtà non serve praticamente niente. Quanto dura una scarpa? Cioè, spesso me lo chiedono, no? Io appunto faccio questo corso di corsa e appunto le mie allievi mi chiedono: ma quando devo buttare via le scarpe? Devo prenderne di nuove? Questa è un'altra domanda molto interessante e diciamo che dipende anche in questo caso tantissimo dal tipo di runner, dal tipo di persona e dall'uso che ne fa e da tutto un insieme di caratteristiche. Idealmente, quando la suola è consumata, è probabile che anche la parte che c'è in mezzo, quindi l'intersuola, si sia un po' degradata. L'intersuola, tra l'altro, è fatta di materiale espanso, quindi contiene tante bolle d'aria che con gli impatti ripetuti si schiacciano perché l'aria scappa fuori, esce fuori. Quando l'intersuola rimane più compattata, ovviamente perde di elasticità e di capacità di ammortizzare contemporaneamente. Come indicazione, diciamo che probabilmente, direi quasi a nessuno, è conveniente usare delle scarpe per più di 1000 km. In certi casi, però, già dopo poche centinaia di chilometri, magari anche dopo 500, magari per soggetti pesanti o che caricano le scarpe proprio solo in un certo punto, la scarpa è già perde di validità in maniera percepibile. Se uno riprova la stessa scarpa dopo un po' che ha usato lo stesso modello, anche dopo un po' che ha usato l'altra, immediatamente dice: ah, ma accidenti, sembra un'altra scarpa, qualcosa. Magari erano identiche, che comparte insieme, però quella nuova rispetto a quella vecchia permette di sentire. Aggiungo solo una cosa: uno dei motivi per cui le aziende, soprattutto le maggiori, le più importanti multinazionali del settore, spendono budget favolosi nella ricerca scientifica è proprio perché chiaramente differenti materiali, differenti ritrovati, differenti inserti che possono essere messi all'interno del cuscino, del cuscinone dell'intersuola, possono portare a risultati diversi. Quindi tendenzialmente possono anche migliorare la durata. Ci sono scarpe più indicate per, non so, per i 10 km, per i 21 km, per una maratona? Cioè, tu consigli comunque di, se hai un certo tipo di obiettivo, di scegliere un certo tipo di scarpa o non è necessario? Ma in linea di massima la risposta è che la scarpa migliore è quella che dà la protezione che serve senza aggiungere altro. Però tendenzialmente più faccio corse lunghe, più ho bisogno di stabilità. Perché tende, la pronazione tende a accentuarsi man mano che aumenta la distanza e che uno si stanca. Quindi se vado sul lungo meglio una scarpa stabile piuttosto che una cosiddetta neutra. D'altro canto il peso, che una volta soprattutto in Italia era sovra responsabilizzato, sembrava che la scarpa più leggera dovesse essere un must per tutti, in realtà è poco importante. L'unica cosa proprio se do gli obiettivi cronometrici, bisogna sapere che in effetti studi scientifici hanno dimostrato che un guadagno di 100 grammi su una scarpa rispetto a un'altra permette di ridurre il consumo energetico di 1%. Quindi interessante questo. Differenze minori tendono a non essere significative, ma una scarpa da 350 rispetto a una 250, magari addirittura una 450, la differenza c'è, 1% di energia. Per la scelta delle scarpe c'è differenza tra uomo e donna? Ma diciamo di sì, non solo perché le case costruiscono anche delle scarpe su forme dedicate più a un piede femminile piuttosto che maschile, al di là dei colori pastello che sono quelli che in realtà in genere vengono percepiti come l'unica differenza, ma la differenza reale è che la donna tende ad avere una pronazione più accentuata, perché a parità di altezza il bacino più largo dell'uomo, la tibia ha un angolo diverso rispetto a quello dell'uomo e quindi si riverbera in una maggiore rotazione dell'articolazione sottostragalica. Quindi tendenzialmente le donne più degli uomini possono correre in sicurezza con delle scarpe stabili. Quindi pronazione, ricordiamo che è il movimento del piede che fa verso l'interno, invece supinazione al contrario, verso l'esterno, no? Sì, esatto. Grazie a Filippo Pavesi. Grazie a tutti e a risentirci. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.